Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Gli italiani sono da sempre un popolo di emigranti, ma i motivi che oggi spingono migliaia di giovani italiani a lasciare il loro paese non sono gli stessi delle generazioni passate. Alcuni parlano, spesso con toni allarmistici, di fuga di talenti o di brain drain. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Avete appena ascoltato l'interessante produzione video di Quattro Gatti intitolata La fuga dei cervelli, video online che ben spiega il fenomeno concentrandosi sui fatti e lasciando da parte la troppa e deviante retorica accumulata nel corso degli ultimi anni. Rimanete assolutamente sintonizzati oggi sulle nostre frequenze. Abbiamo numeri esclusivi davvero clamorosi proprio sulla fuga dei talenti che ascolterete tra pochissimo. Il 2012 è stato l'anno del boom di emigrazione dall'Italia. Oggi parte pure il concorso Giovani Talenti in Europa, grazie al quale 6 ascoltatori under 30 potranno sottoporre proposte concrete a favore dei giovani agli europarlamentari in un viaggio premio a luglio a Strasburgo. Ora però, come ogni settimana, andiamo a conoscere la protagonista della puntata di questo sabato. Ho imparato a supportare il mio staff, ogni giorno qui ti gratificano, ti ringraziano ogni giorno per quello che fai. Letizia Sirtori, 32 anni, è International Tourism Sales Manager per l'ente del turismo di Washington DC negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Notiziario monografico, come vi anticipavamo, interamente dedicato agli ultimi dati dall'anagrafe italiani residenti estero sul flusso di espatri dalla penisola nel 2012. Dati, vi premettiamo, clamorosi. Si parla di un incremento negli espatri del 30% in un solo anno. Ce li riassume Desideria Toscano, responsabile dell'anagrafe italiana residenti estero, in questa intervista esclusiva. Il numero dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE centrale è pari a 4.341.156, con un incremento del 3% rispetto al 2011. E i giovani iscritti in AIRE tra i 20 e i 40 anni nel 2012 sono 1.275.910, quindi diciamo una percentuale del 35% rispetto al totale degli iscritti. Nell'anno in corso gli iscritti come flusso di espatriati, quindi coloro che lasciano l'Italia per recarsi all'estero, nel totale sono 78.941, con un incremento del 30% rispetto all'anno scorso. E di questi praticamente i giovani tra i 20 e i 40 anni nel 2012 ammontano a 35.435, con un incremento pari a circa il 30% rispetto all'anno precedente. A livello generale abbiamo una maggioranza di uomini, corretto, rispetto alle donne? Sì, sia per quest'anno che per l'anno passato abbiamo registrato che circa il 56% dei giovani tra i 20 e i 40 anni che espatria è di sesso maschile, mentre il 44% sono donne. Andiamo ora sui giovani, appunto, concentriamoci sui giovani e sulle regioni di provenienza. Il Nord Italia è il territorio maggiormente interessato dal fenomeno, lo rilevano proprio i dati registrati nell'AIRE che sono aggiornati proprio al 31/12/2012, e le regioni dove si registra diciamo una percentuale maggiore di giovani che emigrano all'estero sono proprio la Lombardia e il Veneto, e l'incremento medio rispetto all'anno scorso è piuttosto rilevante perché oscilla intorno al 25% sia per una regione che per l'altra. E infatti i lombardi che risultano emigrati, parliamo sempre dei giovani tra i 20 e i 40 anni, quest'anno ammontano a 6.111, mentre i veneti, questo per dare un ordine di grandezza, sono 3.277. A queste due regioni poi fa seguito la Sicilia, quindi ci spostiamo verso il meridione, e anche il Lazio, che insomma presenta un numero piuttosto diciamo significativo di persone che espatriano. Sempre parlando di giovani, l'Europa resta il continente preferito e la Germania è il paese preferito, è corretto? Assolutamente sì. La Germania, dove diciamo si registrano insomma poco più di 5.137 giovani espatriati in quest'anno, poi il Regno Unito seguito dalla Svizzera. Invece se guardiamo il dato complessivo di italiani espatriati dal 1990 a oggi, scopriamo che sono